Nonostante l'estrema stanchezza che cominciava ad avvertire, la principessa era in estasi, non si era mai sentita meglio. Non avrebbe permutato nemmeno con un soggiorno a Schönbrunn, l'unica prospettiva che pure le apparisse lusinghiera, quei divini pranzi di Madame de Germain tonificati da tanto sale. «La scrive con un'immensa C!» esclamò Madame d'Arpajon. «Semmai con un'immensa M, suppongo, ragazza mia!» replicò Madame de Germant, non senza avere scambiato col marito una gaia occhiata che sottintendeva «Sarà imbecille!» «Ecco, a proposito!» si rivolse a me la duchessa con uno sguardo sorridente e dolce e perché, da perfetta padrona di casa, voleva, sull'artista che più mi interessava, rivelare la sua preparazione offrendomi in pari tempo l'opportunità di far sfoggio della mia. «Ecco», mi disse, agitando leggermente il suo ventaglio di piume, tanto era conscia in quel momento di esercitare appieno i doveri dell'ospitalità e facendo anche segno, per non trascurarne alcuno, che mi servissero di nuovo gli asparagi in salsa mousseline. «Mi sembra che Zola abbia scritto per l'appunto un saggio su Elstir, di cui poco fa siete stato a guardare alcuni quadri, gli unici del resto che mi piacciono di quel pittore», aggiunse. In realtà detestava la pittura di Elstir, ma trovava di qualità eccelsa tutto ciò che stava in casa sua. Chiesi al signor di Germant se conoscesse il nome del signore raffigurato col cilindro nel quadro del ballo popolare e che era poi lo stesso, lo avevo riconosciuto, di cui Germant possedevano, appeso proprio accanto, il ritratto ufficiale, risalente più o meno allo stesso periodo, quando la personalità di Elstir non si era ancora del tutto dispiegata e si ispirava un poco a Manet. «Mio Dio», mi rispose il duca, «so che si tratta di un uomo che non è uno sconosciuto né un imbecille nella sua specialità, ma sono un disastro per i nomi. L'ho qui sulla punta della lingua, il signor... Insomma, pazienza, non me lo ricordo. Swan potrebbe dirvelo, è lui che ha fatto comprare quegli affari a Madame de Germant. Lei è sempre troppo gentile, ha sempre paura di contrariare se rifiuta qualcosa. Detto fra noi, credo che ci abbia rifilato delle croste. Ciò che posso dirvi è che quel signore è stato per Elstir una specie di mecenate, l'ha lanciato e spesso l'ha tolto dagli impicci commissionandogli qualche quadro. Per riconoscenza, se volete chiamarla riconoscenza è questione di gusti, lui l'ha dipinto in quel posto dove fa un effetto piuttosto comico così vestito a festa. Sarà anche un padre eterno, ma evidentemente ignora in quale circostanze si porti un cilindro. Con quell'arnese in testa, in mezzo a tutte quelle ragazze senza cappello, sembra un piccolo notaio di provincia un po' brillo. Ma dite un po', mi sembra che vi piacciano alla follia quei quadri. Se l'avessi saputo, mi sarei informato in modo da potervi rispondere. Del resto, non è il caso di rompersi la testa per approfondire la pittura di Elstir, come se si trattasse della Source d'Ingré o degli Enfants d'Edouard di Paul de la Roche. Da apprezzare lì dentro c'è una certa finezza d'osservazione. Divertente, parigina, niente di più. Non c'è bisogno di essere degli eruditi per guardarla. Lo so che sono solo degli abbozzi, ma mi sembra che non ci sia abbastanza lavoro. Swan, che faccia tosta! Voleva farci comprare un mazzo d'asparagi. Anzi, c'è rimasto qui in casa per qualche giorno. Non c'era nient'altro nel quadro, un mazzo d'asparagi del tutto simili a quelli che state mangiando. Ma io mi sono rifiutato di mangiarli, gli asparagi del signor Elstir. Ne chiedeva 300 franchi. 300 franchi per un mazzo d'asparagi. Un Luigi, ecco cosa valgono e quando sono primizie. L'ho trovato un po' forte. Se a quella roba poi ci aggiunge dei personaggi, ha qualcosa di canagliesco, di pessimistico che mi dà sui nervi. Mi stupisce che a un'intelligenza sottile, a una testa fine come voi, piacciano cose del genere. Non capisco perché vi esprimiate così, Bazin, intervenne la duchessa, che non amava sentir deprezzare oggetti contenuti nei suoi salotti. Mi guardo bene dall'accettare tutto senza discriminazione nei quadri di Elsir. C'è da prendere e da lasciare, ma non sempre manca di talento, e quelli che ho comprati bisogna ammettere che sono di rara bellezza. Orian, in quel genere preferisco mille volte il piccolo studio di Vibert che abbiamo visto alla mostra degli acquarellisti. È una cosa da niente, se volete. Ci starebbe tutto nel cavo di una mano, ma trabocca d'intelligenza fino alla cima delle unghie. Quel missionario smunto, sudicio, davanti a quel prelato svenevole che fa giocare un cagnolino, è un piccolo poema, è pieno di arguzie e anche profondo. Voi conoscete il signor Elstir, non è vero? Mi chiese la duchessa. Davvero un uomo gradevole. È intelligente, ammise il duca, e ci si meraviglia quando si parla con lui che la sua pittura sia così volgare. È più che intelligente, è un uomo piuttosto spiritoso, rettificò la duchessa col tono avvertito e centellinante di chi se ne intende. Non aveva cominciato un vostro ritratto, Rian? Chiese la principessa di Parma. Sì, tutto rosso, tipo gambero, rispose Madame de Guermantes. Ma non sarà quello a tramandare il suo nome alla posterità. È un orrore, Bazin voleva distruggerlo. Questa frase Madame de Guermantes la pronunciava spesso. Altre volte però il giudizio era ben diverso. Non amo la sua pittura, ma una volta mi ha fatto un bel ritratto. Uno dei due apprezzamenti era destinato di solito alle persone che le parlavano del ritratto, l'altro a quelle che non gliene parlavano e alle quali desiderava notificarne l'esistenza. Il primo era ispirato dalla civetteria, il secondo dalla vanità. Fare un orrore con un vostro ritratto, ma allora non è un ritratto, è una menzogna. Io, che so a malapena tenere in mano un pennello, credo che se vi dipingessi, limitandomi a rappresentare quel che vedo, farei un capolavoro, disse ingenuamente la principessa di Parma. Probabilmente il Stir mi vede come mi vedo io, cioè priva di fascino, replicò Madame de Guermantes con lo sguardo al tempo stesso malinconico, modesto e carezzevole, che le parve più indicato a farla apparire diversa da come l'aveva mostrata il pittore. Quel ritratto non dovrebbe dispiacere a Madame de Gagliardon, disse il duca. Perché non si intende di pittura? Chiese la principessa di Parma, sapendo quanto Madame de Guermantes disprezzasse la cugina. Ma è una bravissima donna, non è vero? Il duca atteggiò il viso al più profondo stupore. Ma via, Bazin, non vi accorgete che la principessa sta prendendovi in giro? La principessa non ci pensava nemmeno. Sa quanto voi che Gagliardonette è una vecchia peste, riprese Madame de Guermantes, il cui vocabolario, abitualmente limitato all'intera gamma di vecchie espressioni del genere, era saporito come quei piatti, ancora rintracciabili nei deliziosi libri di Pampigli, ma diventati nella realtà così rari. Quei piatti in cui le gelatine, il burro, il sugo, le quenelle sono autentici, non comportano la minima aggiunta e persino il sale viene dalle saline di Bretagna. Dall'accento, dalla scelta delle parole, si sentiva che il fondo della conversazione della duchessa proveniva direttamente da Guermantes. La duchessa, in questo, differiva nettamente da suo nipote Saint-Lieu, invaso da tante idee, da tante espressioni nuove. È difficile, quando si è turbati dalle idee di Kant e dalla nostalgia di Baudelaire, scrivere il francese squisito di Enrico IV. Così la purezza stessa del linguaggio della duchessa era un segno di limitazione, denotava che in lei l'intelligenza e la sensibilità erano rimaste impenetrabili all'irrompere del nuovo. Anche sotto questo profilo, lo spirito di Madame de Guermantes mi piaceva proprio per ciò che escludeva e che costituiva precisamente la materia del mio pensiero e per tutto ciò che, grazie a tante esclusioni, aveva potuto conservare. Quel seducente, agile vigore dei corpi che nessuna spossante riflessione, nessun cruccio morale o turbamento nervoso hanno alterato. Il suo spirito, di formazione tanto anteriore al mio, era per me l'equivalente dell'emozione donatami dalla passeggiata delle fanciulle della piccola banda in riva al mare. Madame de Guermantes mi offriva, addomesticati e addolciti dalla cortesia, dal rispetto per i valori dell'intelligenza, l'energia e il fascino di una crudele ragazzina dell'aristocrazia dei dintorni di Combray, che sin dall'infanzia montava a cavallo, spezzava la schiena ai gatti, cavava gli occhi ai conigli e, così come era rimasta un fiore di virtù, allo stesso modo, un bel po' d'anni prima, le sarebbe potuto capitare, tanto simili erano le sue grazie, di essere l'amante più ammirata del principe di Sagan. Solo non era in grado di capire quello che avevo cercato in lei, il fascino del nome Guermantes, nel pochissimo che avevo trovato, un residuo provinciale di Guermantes. I nostri rapporti erano fondati su un malinteso che non poteva mancare di manifestarsi appena i miei omaggi, anziché indirizzarsi alla donna relativamente superiore che lei credeva di essere, fossero andati a un'altra donna altrettanto mediocre e dalla quale spirasse lo stesso fascino involontario. Malinteso affatto naturale e destinato a perpetuarsi fra un giovane sognatore e una donna del gran mondo, ma che turba profondamente il primo finché non abbia riconosciuto la natura delle proprie facoltà di immaginazione e non abbia imparato a rassegnarsi alle inevitabili delusioni cui va incontro tanto a opera delle persone quanto a teatro, in viaggio e persino in amore. Poiché il signor di Guermantes aveva dichiarato, prendendo lo spunto dagli asparagi di Elstir e da quelli che erano stati serviti dopo il pollo alla finanziera, che gli asparagi verdi, cresciuti all'aria aperta e privi, come dice così curiosamente lo squisito scrittore che si firma E. de Clermont-Tonnerre, dell'impressionante rigidità dei loro fratelli, dovrebbero essere mangiati con le uova, quel che piace agli uni dispiace agli altri e viceversa, sentenziò il signor di Bruté. Nella provincia di Canton, in Cina, l'omaggio più raffinato che si possa fare consiste nell'offrire uova ad ortolano completamente putride. Il signor de Bruté, autore di uno studio sui mormoni apparso nella Revue des Deux Mondes, frequentava solo gli ambienti più aristocratici, ma scegliendo fra essi quelli che avevano una certa fama di intelligenza, di modo che dalla sua presenza, specie se assidua in casa di una donna, si capiva se questa avesse un salotto. Sosteneva di detestare la vita mondana e assicurava, in separata sede, a ciascuna delle sue duchesse che la frequentava esclusivamente per la sua intelligenza e la sua bellezza. Tutte ne erano persuase. Ogni volta che, con la morte nel cuore, si rassegnava ad andare a un grande ricevimento dalla principessa di Parma, le convocava tutte perché gli dessero coraggio, e in tal modo lo si vedeva sempre al centro di una sua cerchia privata. Per far sì che la sua reputazione di intellettuale sopravvivesse alla sua mondanità, applicando alcuni precetti dello spirito de Guermantes, intraprendeva, in compagnia di signore eleganti, lunghi viaggi scientifici nella stagione dei balli, e quando una persona snob, e dunque ancora priva di posizione, cominciava a comparire ovunque, metteva un'ostinazione feroce nel non volerla conoscere, nell'evitare che gliela presentassero. Il suo odio per gli snob derivava dal suo snobismo, ma faceva credere agli ingenui, cioè a tutti, che egli ne fosse esente.